10:42 in collegamento telefonico con Don Ciccio, buongiorno. Buongiorno Margherita, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici, i compagni di Radio Onda Rossa. Come va? Dici, ieri insomma sei reduce da una seratona a Taranto e... Sono reduce da una seratona a Taranto, bellissima, noi facciamo, abbiamo scelto di creare una crew che include sia... persone come me che hanno speso diciamo tutta la loro vita a fare questa musica, sono un po' più anzianotti, insieme a dei giovanissimi collezionisti di roots music, suoniamo roots music, ska, rocksteady, insomma tutte le basi della musica giamaicana dal passato, tutti i giovedì, ed è stata davvero molto ma molto partecipata e davvero molto soddisfatto, molto bello ieri sera, ma non vedo l'ora che ci sia questa roba invece di Capodanno, dove certo, ci incontreremo tutti e sicuramente sarà un'esplosione di gioia generale. Senti, tu mi dicevi di questa scelta di fare soltanto roots, insomma il classico che non muore mai, quindi stiamo sì, parlando di una scena reggae nella quale appunto uno sceglie anche cosa suonare, cosa non suonare. Assolutamente, ma almeno per quanto mi riguarda mi considero un select, cioè una persona che si sceglie le robe che suona e si prende la responsabilità delle canzoni che suona. È decisivo questo aspetto perché prevede anche un po' di cultura, un po' di ricerca prima di proporre della gente della musica. Vorrei specificare anche che io non sono un DJ che suona soltanto roots in casa, cioè io suono di tutto. Quel progetto della serata del giovedì a Taranto è un progetto di roots, però assolutamente il 31 verrò a suonare musica che potrebbe, la mia ricerca verte intorno a tutte le musiche che vengono dall'Africa, con il groove dell'Africa, col beat dell'Africa, per cui potresti ascoltare della samba così come ascolterai della soca, che è la musica di Trinidad e Tobago, per la quale sia io che Mamma Arias che tutta la nostra crew stravediamo, perché parti puro con un groove africano che in Giamaica ormai purtroppo non c'è più proprio nel modo di fare la musica, ma potresti ascoltare qualsiasi altra musica che appunto abbia il groove, quindi la ricerca delle musiche della diaspora dei neri, ecco, questa è la roba che faccio io musicalmente. Senti, prima che ti telefonassimo noi stavamo ascoltando Repubblica Italiana. Yeah. Io ti direi ascoltiamo un attimo insieme e poi insomma quando ti va prendi la parola e continuiamo, non ti dico di commentare le canzoni, cioè non è quello il punto, però pure sì, per dare un'idea ad ascoltatrici e ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Sì Margherita, va benissimo. Okay. D'accordo. Okay, perfetto. Brothers and sisters, in this wonderful country, called Italy, but look out man, cause all that you see is never real. Living in Babylon, living in Italy is no easy. Nasce il detto, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, c'è la porre nello stem. Ma ce l'hai detto, l'Italia è una repubblica democratica, c'è democrazia nello stem. Ma ce l'hai detto, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, c'è la porre nello stem. Ma ce l'hai detto, l'Italia è una repubblica democratica, c'è democrazia nello stem. Beautiful Italy, that's a morocats. Tinga linga linga, vita bella avast. Nane nane nane, che se la vera faccia. Da che si tolga, chiana sa sfascia. Che se l'Italia della chiacchiaruna. Che se l'Italia della ladron bamuna. Che se l'Italia della mangia mangia. Che Africa nella solda paia, inghiassa la panza. Che se approfittano dell'ignoranza. Della pacienza, della povera gente. Che se faccio mazzatando e fatti con estamento, mentre tu padrone te stia assisa tremendo e tremendo. Che sta situazione addossi tu subenda, perché lo sindacato se non nasce una tassenda. Ava sgobba un bra senza nulla mendo. invece non potevo andare a casa con le pezzangulo seriamente. Allora da comune è stato buono città città canale da fatria dove gli chiede pagare da scoprire da più e da pagine più picca. Allora se ne mamme cammina da testa e stringe la tinta facendo stupa gli seie da casi e cave a tagliese se bustata da città buone e comande a tagliese comandisce loro senza proteste e allora da democrazia d'oste. Senti, sfumiamo un pochino, anche sì, se è sempre sì. Brutto sfumare, quindi insomma state dentro le cose italiane, Italia e Babylon is no easy, quindi. Assolutamente siamo dentro le cose italiane, perché questa è una roba che abbiamo prodotto all'inizio proprio della carriera musicale di Manu Marias. Poi, come dire, abbiamo fatto una specie di part-two da questo punto di vista, che è il progetto musicale che si è chiamato Allarme, che abbiamo costruito con Adrian Sherwood, nel quale ad un paio di anni della canzone Repubblica Italiana, ma insomma Manu Marias ha voluto continuare a mettere l'accento sulla crisi incredibile, insomma, che si vive, ma non solo economica, ma anche di costumi, morale, di indecenza generalizzata, insomma, che c'è nella nostra nazione, nella mancanza di rispetto per il futuro dei nostri figli, insomma, perché è come se stessimo bruciando tutte le nostre risorse. E poi in questo continuo ritorno della voglia dell'uomo forte, si chiami Mussolini piuttosto che Berlusconi, piuttosto che, capito, questa mancanza di idee di democrazia generalizzata che abbiamo noi, questo essere un po' alla ricerca del masanello di turno, eccetera eccetera eccetera, per cui sì, assolutamente, noi parliamo dell'Italia, parliamo di politica, è evidente che però parliamo anche d'amore, di gioia, di serenità, di felicità, di rapporti personali, noi parliamo della vita e qualsiasi persona saggia che si occupa della vita parla di tutto. Certo, senti, io ho ascoltato Bless the Lady, poi magari la manderemo pure, insomma, sì, roba certo. Classicona, diciamo. Sì, non si classicone di Manu Marias. come funzionate? Voi cosa facciamo al contrario? Voi cosa vi aspettate domani sera qui a Roma? Siete... Allora, noi, essendo delle persone che, come dire, esplodono energicamente sul palco, speriamo di regalare un live molto fisico, così come noi facciamo normalmente, nel senso che innanzitutto speriamo di scendere dal palco sudati e zuppi, questa è la prima cosa che vogliamo fare. Di contro ci aspettiamo che la gente recepisca questo nostro modo di intendere il live, un po', non so se hai mai avuto la fortuna di vederlo, alla James Brown, una roba che inizia e finisce dopo 3 ore e mezzo, 4 ore, capito? In cui c'è il live band con la Michelangelo Buonarroti Band, un'ottima band italiana di reggae che ci segue ormai da diversi anni. Poi ci saranno le coriste che sono anche delle ottime cantanti soliste, soul and reggae, una è Kinky e l'altra è Sista Kinky. Poi ci sarà Levan Hill, che è la nostra ballerina che cura le coreografie, insomma, e proponendo le ultime danze che arrivano dalla Giamaica e dal mondo. E poi ci sarò io a fare il DJ set, insomma, a danzare e a proporre o prima le musiche che secondo me hanno un nesso con Mama Africa, insomma, con l'Africa, per cui noi ci aspettiamo che la gente recepisca questa nostra ricerca musicale e la recepisca sudando, perché è un po' una bella fatica che però serve, è un po' un rito, sì, la nostra musica, le nostre idee, i nostri concetti si sentono con la pancia, ti devono entrare prima nell'anima, devono fare muovere il corpo, i muscoli, ti devono fare sudare e poi ti convincono nel cervello. Questo è il nostro modo di fare, ma questo è il modo di fare che qualsiasi persona che fa la musica col groove, sia essa reggae, sia essa funk, sia essa hip hop, sia essa altro, devi avere. Non è lo stesso tipo di fruizione che puoi avere ascoltando una musica di Bach o Beethoven, che sono musiche meravigliose. Nostra cosa deve essere partecipata, deve essere ballata, ecco, questo noi ci aspettiamo dal 31, una grande festa cosciente di Capodanno per iniziare un nuovo anno all'insegna proprio della rigenerazione. perfetto. Senti, prima nella telefonata di prima, insomma, io ti chiedevo pure, ti raccontavo un po' delle campagne di questa radio, campagne contro l'omofobia, chiaramente non contro la musica reggae. Ne abbiamo chiacchierato. A me piacerebbe pure chiederti un parere, non per fare la cosa finta, sì, anch'io sono democratico, così, ma proprio Sembra che sia importantissimo discutere di questo. Sì, sì, ma soprattutto perché sembra, insomma, cioè, il reggae è una musica, la musica la fanno le persone non sono tutte uguali, c'è chi pensa delle cose e c'è chi ne pensa delle altre, no? Assolutamente. E allora quando qualcuno dice delle cose che non condivisibili non c'è problema a dirle, ma insomma si può anche se ne può anche parlare, non è una campagna contro la musica, è una campagna contro dei contenuti. E quindi ti chiedevo un commento, così insomma togliamo ogni dubbio su... Sì, no, la mia idea è molto chiara, insomma, su questa cosa qua, che ogni persona ha la sua dignità, ogni persona va rispettata, ed è impossibile parlare contro gli omosessuali nella musica, anche perché mi sembra proprio che ogni persona abbia il diritto a vivere nella maniera più serena, più dolce e più reciproca possibile la propria vita. La vita dentro il sistema di Babilonia è difficile, che davvero quattro sfigati che dicono ad un gay che uno sfigato, mi sembra una lotta da poveri, tra i poveri, insomma, come spararsi, fare morti di fame, è una roba proprio che non può esistere, è negativa, e per cui la combatto giornalmente, l'ho combattuta per tutta la vita, sia che l'oggetto della discriminazione fossero i gay, sia che fossero le donne, sia che fossero gli anziani, sia che fossero i bambini, sia che fosse qualsiasi persona vivente, pianta o animale del mondo, insomma, per cui davvero c'è proprio bisogno di vivere in maniera più rispettosa degli altri, per cui assolutamente io sposo al 100% la vostra campagna, e così faccio sui palchi di tutta Italia. Assolutamente. Devo però sottolineare che ho un'idea un po' meno, tra virgolette, illuminista, un po' meno da bianco, ecco, diciamocela tutta, perché sì, certo. chi è che ha portato i neri dall'Africa a 400 anni di schiavitù siamo stati noi bianchi, sono stati i nostri progenitori, adesso poi noi facciamo finta che non è così, ma erano i nostri progenitori che portavano via, erano i nostri progenitori portoghesi, spagnoli, inglesi, italiani ed europei in generale, a portarli a schiavizzarli, per cui tanto bene al mondo la nostra cultura non ha fatto, ecco, diciamocela proprio chiara, no, non ha fatto bene neanche la civilizzazione forzata, perfetto, il cambiare le religioni perché la nostra era più giusta, cioè perfetto, ci sono è stata una devastazione devastanti che abbiamo fatto noi bianchi con i neri, ecco, per cui visto che siamo in periodo natalizio, cito Gesù che dice: non guardate com'è il fatto della pietruzza, della trave, degli occhi degli altri, sì, perché molte volte noi riusciamo a vedere il peggio negli altri e non riusciamo a capire le cagate che facciamo. Insomma, ecco. Per cui il passaggio è davvero importante. Sì, lotta senza se o senza ma a questa omofobia, che però devo dire la verità sta molto calando nella musica giamaicana, sì, perché hanno avuto una serie di mazzate dal punto di vista del business, cioè quando iniziano a saltare i tour europei, insomma, inizi poi a pensare a fare una canzone di quel tipo lì. Faccio fatica a capire che sia completamente cambiato nella cultura giamaicana questa cosa, Kurt, perché così non è, perché è una cosa radicata, stratificata, lo pensano le nonne, lo pensano i nonni, lo pensano i bisnonni, lo pensano i bimbi e le madri, lo pensano tutti loro da questo punto di vista, perché hanno una concezione probabilmente sbagliata, per cui tutto ciò che viene e segue il corso della natura è bene, ok? Sì. E quindi su questa cosa bisognerà intervenire. Però bisogna anche intervenire nella cultura occidentale, in cui completamente si è perso invece il rapporto con la natura e con tutto ciò che è naturevolezza. Assolutamente, anche perché voglio dire, non è che in Occidente la vita per chi viene considerato per i non eterosessuali sia una vita assolutamente migliore, cioè voglio dire, l'omofobia esiste in Italia, esiste in Germania, esiste in Inghilterra, quindi è una cosa che ci potrebbe anche accomunare più che altro. E comunque, no, questa era la domanda, diciamo. Bisogna avere, insomma, una una posizione molto ferma di condanna, molto decisa nello studio, capito? Certo. Delle cose, capire le dinamiche, capire le loro culture, capire le falle nella nostra cultura, capire ciò che noi abbiamo fatto e non dire no, ma i miei antenati hanno fatto, e no, bello mio, e no, sei bianco, sei parte integrante di quello che è successo, siamo, lo siamo tutti noi di quello che è successo, per cui adesso poi lavarsene le mani e dire no, ma adesso noi siamo bravi e voi siete gli ignoranti che sparate sugli omosessuali, mi sembra un attimo una posizione molto da saccente, da quelli che hanno avuto la possibilità di studiare, di capire le cose nei confronti di coloro i quali non l'hanno potuto fare, fondamentalmente per povertà. E soprattutto anche per la colonizzazione che c'è stata in Giamaica, che è stata per la povertà voluta, perché essendo dovevano essere poveri, perché erano funzionali soltanto a produrre canna da zucchero per esportare nell'impero britannico, eccetera, eccetera. E poi se mi fai fare dei soldi con la tua musica, io ti do un poco di lire, però insomma poi il business lo gestisco io. Senti, è proprio secondario, infatti, il fatto di questa cosa della musica rispetto al business, infatti, hai colto nel segno. Senti, allora, noi ci vedremo sicuramente domani sera, poi forse sì, di pomeriggio non vediamo riusciremo l'ora. Riusciremo insomma a sentire anche altri sì. del gruppo. Perché sì, speriamo di riuscire a mettere in connessione con Mamma Marias okay. nel pomeriggio, così scambierete due chiacchiere anche con lei, che vi assicuro c'ha una gran voglia di venire a Roma. Noi speriamo che ci siano, ma siamo sicuri che ci saranno migliaia di persone, perché c'è tanta gente che ama Radio Onda Rossa così come la amiamo noi da sempre. Io Radio Onda Rossa, come dire, mi ricordo delle trasmissioni che feci probabilmente 22-23 anni fa, la porto nel cuore, è un'esperienza importante. Poi la cosa che ci piace anche è che andiamo a farlo in un bellissimo contenitore musicale come l'Acrobax, dove c'è comunque un collettivo di persone che porta avanti una serie di cose alle quali noi siamo davvero molto vicino. Per cui speriamo ed invitiamo tutta Roma a essere lì, perché sarà una super festa, veramente una super festa, in cui celebreremo l'Africa, celebreremo le musiche che arrivano dall'Africa, e lo faremo con serenità, con energia, e speriamo di perdere almeno un chilo e mezzo a testa, così per il tuo costume ci siamo già messi avanti da Capodanno. Va benissimo, senti, io ti ringrazio tantissimo, quindi ci sentiremo o di pomeriggio oppure ci vedremo direttamente domani sera sul palco. E va bene, buon io tutto. Che ringrazio te Margherita e saluto tutti gli ascoltatori e tutta la gente che supporta Radio Onda Rossa, che fa sì che questa esperienza unica ed incredibile continui ad andare avanti negli anni, perché benissimo. Ne abbiamo davvero bisogno. Va grazie, bene. Ciao allora. Ciao, buona ciao giornata. Margherita, ciao, buona ciao. Giornata a te, ciao, stai ciao. Bene, ciao. Ciao, ciao. Listen, this tune my man's free, man.